Chissà perché i responsabili della banda dei carabinieri, per accompagnare l'uscita delle bave dalla chiesa dopo il funerale delle vittime di Nassiriya martedì scorso, hanno optato per la musica della canzone del Piave. Tutte le altre scelte musicali di quella triste giornata, almeno per quanto ne hanno riferito i giornali, perché io vi confesso la diretta televisiva non l'ho seguita, nel senso che l'idea di trasmettere un funerale in diretta come fosse uno spettacolo o come si dice oggi un evento mi sembra così strana che mi astengo persino dal commentarla, tutte le altre scelte musicali della giornata mi sono sembrate abbastanza ragionevoli. Era giusto che i commilitoni della Brigata Sassa riscoltassero i loro compagni con il canto di Demonios, che è il triste inno di battaglia di quella unità. Era giusto che l'arrivo dei feretri in chiesa l'organo intonasse il solenne De Profundis di Bach. Era giusto, o almeno comprensibile, che dopo la benedizione dell'ordinario militare, perché abbiamo ancora un ordinario militare, pensate, e un vescovo con i gradi da generale. Era giusto che dopo la sua benedizione l'orchestra Laus e il collo della diocesi di Roma eseguissero dei brani di Monsignor Marco Frisina. Io non conosco quel musicista, ma prendo dal Corriere, che è autore delle colonne sonore TV di Papa Giovanni ed Apocalisse, e che in un'occasione così platealmente mediatica ci fosse spazio per l'opera di uno specialista del settore, mi sembra affatto naturale. Ma il Piave, Dio mio, che cosa c'entrava il Piave? Mi rendo conto che l'inno nazionale in quel momento sarebbe suonato fuori luogo, che probabilmente il protocollo lo prescrive per tutt'altre occasioni, ma non saranno certo mancate nel repertorio di quell'illustre corpo bandistico dei titoli capaci di esprimere il lutto e la solennità di un funerale di Stato senza le implicazioni storiche e ideologiche che quell'inno inevitabilmente comporta. Perché la canzone del Piave, la leggenda del Piave, il titolo incerto, gode o ha goduto di molta popolarità. Ed è forse tra le marce guerresche che ci hanno afflitto negli ultimi due secoli una delle meno insopportabili. Ma con la situazione e i caduti che ivi si commemoravano ha veramente ben poco a che fare. L'autore dei versi, quel E. A. Mario dietro cui si nasconde il Giovanni Gaeta che in seguito avrebbe dato il meglio di sé con le strazianti parole di Santa Lucia Lontana e il pathos un po' compiaciuto di Balocchi e Profumi, e non doveva essere quindi un animo particolarmente marziale, occhio e croce, e a Mario celebra, sorvolando forse con qualche disinvoltura sulla dinamica storica degli eventi, soprattutto il tema della resistenza al nemico invasore. E non ci piove, il tema è assolutamente quello. Dall'iniziale l'esercito marciava per raggiungere la frontiera e far contro il nemico una barriera, al drammatico no disse il Piave, no dissero i fanti, mai più un nemico faccia un passo avanti, che è una delle ultime strofe. Della tragedia della prima guerra mondiale, quei versi ricordano soprattutto la resistenza ostinata nelle trincee, l'impegno dei tanti militi ignoti che andavano al macello nella convinzione di risparmiare, se non altro, un'occupazione nemica al paese. Ora non farò torto alla vostra intelligenza sottolineando come tutto questo non abbia nulla a che fare con quanto è successo a Nassiriya. E forse non è neanche qui che sta il punto. Il problema non consiste soltanto nel tentativo pur fastidioso di cambiare le carte in tavola confondendo i guavi dell'aggredito e quelli dell'aggressore, è cosa questa a cui la retorica militare ci ha abituato e da cui siamo in grado più o meno tutti di difenderci. Ma il fatto è che sui caduti del Piave, sui 600.000 morti della Grande Guerra, si è impiantata a sua tempo una delle speculazioni ideologiche più classiche della nostra storia. La loro memoria, come è noto, è stata sequestrata in massa dal fascismo, che se n'è servito sfruttando il tema polemico della vittoria mutilata e il senso di identificazione che la loro perdita riproponeva per acquisire il consenso di cui aveva bisogno per la sua scalata al potere. In fondo ci deve essere un motivo per cui Mussolini a conclusione della marcia su Roma sosteneva di aver portato alla capitale l'Italia di Vittorio Veneto. E ci deve essere un motivo se alla canzone del Piave, nonostante l'impostazione tutto sommatico democratica dei suoi versi, in cui non a caso si parla molto di fanti e poco o nulla di generali, e nonostante questo le sia capitato di essere adottata come inno nazionale della Repubblica di Salò. Ecco, io credo che di operazioni del genere non abbiamo oggi assolutamente bisogno. Quei caduti devono poter suscitare affetto e pietà senza che questo significhi per nessuno un coinvolgimento nel progetto in nome del quale sono stati mandati a morire. Quella identità nazionale ritrovata di cui tanto si è parlato in questi giorni, su cui si sono dilungati non senza contraddizioni i vari Ciampi e Ruini, non ha proprio niente a che fare con le scelte politiche del governo e naturalmente neanche con quelle dell'opposizione. Un'identità, d'altronde, qualsiasi identità, ha senso se viene costruita su una serie di valori condivisi e liberamente scelti da chi vi ci si rispecchia. Quando la proposta, come succede spesso in politica, viene dall'alto, i proponenti si identificano in un modo o nell'altro con chi detiene il potere, beh, ci sono tutte le ragioni del mondo per diffidarne un poco. Anche per questo, forse, sarebbe stato meglio che quei funerali fossero stati accompagnati da un altro inno.